Tutti pazzi per la notte dei Publivori. In occasione della notte dei Publivori al Teatro degli Arcimboldi di Milano il 5 e 6 novembre, Radio 24, radio ufficiale dell'evento, trasmetterà uno speciale condotto da Gianluca Nicoletti. Tutti pazzi per la notte dei Publivori. Venerdì 5 novembre alle 21 su Radio 24.